Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Voi sapete che la musica, come la letteratura, come l'arte in genere, è autobiografica per forza. Insomma, quindi già parla questo brano, queste bellissime note che sentite, parlano dell'ospite che è qui con me oggi a Storielle, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Però, come sempre, prima di salutare con nome e cognome, io voglio sapere dal personaggio che è qui con me oggi quali sono i tre aggettivi col quale potrebbe descriversi. Sentiamo con attenzione. Esteta. Imprevedibile. Sì. E ritardataria. Ma sull'ultimo mi sento di poterla discolpare, perché è arrivata addirittura con un anticipo di mezz'ora, quindi non sapevo bene cosa dire. Scusa. Perché ero accompagnata da un uomo puntualissimo che, esatto, insomma, ogni volta dico, cerca di venire proprio pochi minuti prima perché c'è da fare, e invece lui si presenta, che è meglio però che, insomma, che quelle persone che magari arrivano con grande ritardo, sì, e tu sei lì sulle spine, dici quando arriverà, il tempo passa. Sì, è vero, però è anche abbastanza umiliante, perché io ce la metto tutta, ce la metto proprio tutta e non ci riesco. Federica Fornabaio, che è l'ospite di oggi, è musicista, pianista, compositrice, ma la cosa importante da dire è che ha soltanto 24 anni. Non lo so, a me sembra tutto così normale. Ho sempre suonato da piccola e a un certo punto è stato naturale il momento che è arrivato per iniziare a comporre, a dire qualcosa di me, a dire qualcosa di diverso da quello che già c'è. E così sono andata avanti, ma senza nessun tipo di forzatura, di costrizione o di una forma mentis particolare per cui me lo sono imposto. È andato così. Ecco, è andata così, è andata benissimo, perché Federica Fornabaio, l'avrete vista se avete visto Sanremo, l'ultima edizione, era la direttrice d'orchestra per Marco Carta e per Arisa, che sono, esatto, i due che nelle diverse categorie hanno vinto quest'anno, quindi hai fatto l'amplen praticamente. Sì, no? Sì. Hai diretto, che non avevi forse ancora 24 anni? Ne avevo 23. 23, pensato. Ah. Poi abbiamo detto pianista, compositrice, il tuo grande sogno, ma già hai fatto delle cose in questo ambito. Tu sogneresti di fare delle colonne sonore per, sì, i film, no? Questo è la tua vera, il tuo vero obiettivo. Sì, anche perché rispecchia perfettamente quello che è il mio processo compositivo, per cui ho sempre, forse lo chiamerei un vizio, quello di trasformare in qualcosa di palpabile, di visibile, qualsiasi cosa di astratto mi capiti di provare, un sentimento, una sensazione a pelle, un qualcosa di intimo, irrazionale, quindi lo trasformo emozionale in immagini. Mi viene spontaneo e naturale fare questo procedimento, e nel momento in cui poi cerco di tradurle in musica nascono i miei brani, che è come se fossero dei cortometraggi. Ecco, quello che abbiamo sentito all'inizio è un titolo, insomma, piuttosto eloquente, Il giorno più bello. Ora, piano piano ritorneremo indietro sulla tua storia, che è breve ma intensa, diciamo, 24 anni, ma già hai fatto parecchie cose. E perché Il giorno più bello? Se tu dovessi dire il giorno più bello della tua vita, che è sempre difficile, perché per fortuna uno, insomma, di giorni belli si spera qualcuno ne abbia vissuto, ma tu qui per esempio cosa volevi tradurre in questo brano? Infatti non parlo del mio giorno più bello, ma del giorno più bello, almeno si presuppone tale, di una mia carissima amica, nonché compagna d'avventure musicali, Laura Seragusa, che si stava sposando, e quindi ho deciso di farle questo regalo di nozze. Ah, quindi un, sì, regalo di nozze, che con lei avevi fatto La Fè du Caffè. Du Caffè, no? Sì. Un duo un po' particolare. Sì, sì, sì, sì. Un progetto. Due matte scatenate, eravamo tutte vestite anni 50, con questo stile molto, molto retro. Proponevamo musica improntata, sempre inediti, improntati però sugli anni 40 e 50 italiani, quindi tendenti allo swing. E lei invece di contro scriveva dei testi attualissimi, tratti dalla cronaca attuale, insomma. Per cui c'era questo binomio fra retro e moderno che rendeva il tutto molto particolare. Un bel connubio. Sì. E comunque, insomma, Federica, fra le altre cose, a parte le cose di cui parleremo, ha appena pubblicato questo CD, tuo disco d'esordio, no? Sì. Porta il tuo nome, Federica, sì, Fornabaio, perché dici che è autobiografico, sì, come dicevamo un po' all'inizio. Poi ce lo spiegherai man mano, lo snoderemo benissimo. Okay. Però torniamo indietro, un pochino l'accento l'avete sentito di Federica, è bello sentire ogni volta delle voci diverse e delle anche inflessioni diverse. Tu sei pugliese. Sì. Di Andria, vicino a Bari. Di Andria, esatto. 1985, il giorno della festa della donna, 8 marzo. Sì. Bel giorno. Bello, sei sì. nata. E da lì i tuoi passi, come sono partiti verso la musica? Ma sono partiti, effettivamente a livello di lezioni di pianoforte sono partiti a 6 anni. Mm. Però ma la sono passione... stati la mamma e il papà che Mimmo e Ninni che ti hanno assolutamente spinto? No. Ho deciso io, punto. così come l'anno prima avevo deciso di voler iniziare ad andare a scuola. A 5 anni? L'anno prima, sì. Sì. Mi tipo volitivo. Sì, a un certo punto faccio delle cose, poi ne voglio iniziare delle altre subito. È andata così, però sicuramente molto ha fatto la Walt Disney. Tantissimo. Storielle. Storiacce. Siete rimasti lì, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, spero di sì. Roberta Giordano con voi e con me c'è Federica Fornabaio. Abbiamo un po' illustrato brevemente la sua breve ma intensa vita. Poco fa, 24 anni, pianista, musicista, compositrice, direttrice d'orchestra, perché ha diretto a Sanremo Marco Carta e Arisa, che hanno vinto tutte e due quest'anno. Ha iniziato a suonare prestissimo, a 6 anni, proprio per sua decisione imperativa e volitiva. È nata ad Andria, vicino Bari, a pugliese. E tu avevi iniziato, ho letto da qualche parte, con il pianofortino, quello mitico Bontempi. Sì, Bontempi, che abbiamo avuto penso tutti in casa. Sì, era il modo, i primi passi per strimpellare, per poi capire se c'era talento o no. E Federica evidentemente l'ha dimostrato. Ma ci dicevi che in realtà la spinta un po' definitiva o folgorazione è stata causata dalla Walt Disney. In che senso? Sì, perché è stata la prima volta con la Walt Disney che sono entrata a contatto con il mondo musicale. Per cui guardando continuamente, perché poi sono delle volte sono monossessiva, per cui se mi piacciono delle cose le devo riproporre ogni giorno. Quindi mi ricordo l'ossessione per Roger Rabbit. Era... Chi ha incastrato Roger Rabbit? Chi ha incastrato Roger Rabbit? Infatti so tutta la colonna sonora a memoria, che è stupenda. Bellissimo, formativo già quello, ma poi anche molto affatto la musica dei cartoni animati da Walt Disney. E mi ricordo la prima che ho riprodotto sulla famosa Bontempi era La Bella e la Bestia. E tu assistevano così, come cosa ti dicevano? Perché hai detto la decisione è stata tua, la passione, hai messo da parte le bambole, hai preso il piccolo pianoforte, ma loro ti hanno poi incoraggiata un po', cioè no? Sì. Non sapevano che cosa pensare di questa storia della musica, per cui la prendevano come un po' la prendevo io, così come viene. Mia madre comunque era contenta che avessi deciso di intraprendere questa strada, anche perché nella sua famiglia i suoi genitori hanno sempre desiderato che... Un artista, figli... Sì, esatto. Insomma, io sono l'unica effettivamente di tutta la famiglia, e quando dico famiglia lo intendo la pugliese, quindi tutte quelle 30 persone che ruotano quotidianamente, zii, tutti quanti, sono l'unica che suona a tutti gli effetti. Che cosa ti porti, a parte l'inflessione molto piacevole, di più dentro della Puglia, Federica? Forse la forza nell'andare avanti, la caparbietà. I pugliesi sono molto zucconi, per cui se si mettono in testa qualcosa devono riuscire ad ottenerla. E si era messa in testa che doveva arrivare a fare quello della musica come lavoro, no? Abbiamo detto che ha appena pubblicato un CD che porta il tuo nome, Federica Fornabaio, 11 tracce, esatto. E cosa sono? 9 inediti e 2 invece sono degli omaggi. Uno a Ryuichi Sakamoto, il grande compositore di colonne sonore contemporaneo, che dice anche che è stato un po' il tuo guru artistico. Sì. Ci sono delle date in cui ti... troveranno alla Feltrinelli gli appassionati fan di Federica Fornabaio? Sì, partiamo appunto da Milano il 13 ottobre, poi ci sarà il 20 ottobre... Quindi la Feltrinelli di Milano? Esatto, poi il 20 ottobre a Roma e il 21 a Firenze. Per presentare il tuo disco, no? Diciamo autobiografico. Ritornando sempre indietro sulla tua autobiografia, tu però hai fatto studi e corsi di perfezionamento sia in Italia che all'estero, no? Di pianoforte, musica, però hai anche hai fatto il liceo classico. Sì. E hai anche un diploma in pubblicità. Sì. Perché sei un artista un po' tutto tondo, no? Leggevo che ti piace la pittura, la fotografia, sei anche un po' stylist. Stylist, sì. Tutte queste cose, come riesci a farle in un così breve arco, insomma? 24 anni. No, ma in realtà è semplice, basta non lasciarsi andare in generale all'ozio, perché l'ozio mi distrugge, per cui sono sempre stata abituata a rimanere in casa piuttosto che ciondolare per strada e darmi da fare, per cui mi dovevo inventare qualcosa per passare il tempo e non giocando né con le bambole né con le macchinine. Lavoravo così, un po' di creatività. E quindi a un certo punto, quando non sapevo più quale di queste passioni assecondare, ho deciso di prendere il corso di pubblicità che le comprendeva un po' tutte. Come se non avessi abbastanza da fare, Federica. Sì. Ma è vero che proprio per questo tuo precoce passione per la musica, la tua caparbietà, il tuo essere laboriosa già da subito, ti ha fatto un po' sentire, ti ha fatto emarginare un po' dei tuoi coetanei, come succede un po' ai bambini talentuosi, sì, che magari sono un po' differenti dagli altri, no? Sì, sì, è successo esattamente così, ma non in maniera eccessiva, perché non ho mai voluto lasciare da parte completamente la mia vita sociale. Le ho dato sempre una grandissima importanza, perché ovviamente prima del lavoro, prima delle proprie attività, ci sono innanzitutto i rapporti affettivi, per cui non li ho mai abbandonati, però effettivamente non riuscivo a trovare quel tipo di comprensione che avrei voluto ricevere, per cui se preferivo per l'appunto stare a casa, fare qualcosa di costruttivo, trovavano strana, sì, insomma. Sì, abbastanza strana, o se invitavo i miei amici a condividere un saggio di musica, non ci veniva puntualmente nessuno. Capisco che magari non fosse la cosa più divertente della terra, però alla fine suonavo sempre per ultima, potevano venire comunque in ritardo. Come faccio io? Visto che sei ritardataria pure tu. Senti, e come sei arrivata quindi a Sanremo a dirigere l'orchestra per Marco Carta e per Arisa? Ero già un po' in trattative con la mia casa discografica, quindi con la Warner. Avevamo iniziato a parlare di questo disco, stavamo prendendo accordi, stavamo capendo un po' che cosa bisognasse fare. E nel frattempo, con il mio curriculum alla mano, nel momento in cui è arrivata la questione Sanremo, hanno pensato di darmi questa opportunità di dirigere appunto i due artisti che avevano in gara, Arisa e Marco Carta. E quindi alla fine io penso tanta fortuna. Questo è sempre bello quando si riconosce, e ovviamente tanto talento, caparbietà, lavoro, no? Di Federica Furnabaio. E allora andiamo sul tuo, dicevamo, disco d'esordio. Abbiamo sentito prima Il giorno più bello, poi ci sono 11 tracce, due inediti, dicevamo, due omaggi a grandi compositori. Per esempio, un brano che particolarmente autobiografico è Nevrastenia. Questa sì. È la... riguarda te, riguarda anche la società attuale, in realtà, chi si sottrae, no? Certo. A un certo modo di essere nevrotico, nevrastenico. Sì, infatti non penso sia un caso che abbia iniziato a scriverlo appena saputo di Sanremo e l'ho finita subito dopo Sanremo. E è stato un momento di, appunto, di nevrastenia totale, condito con una grande voglia di fare, spensieratezza enorme, però è proprio questa la nevrastenia, è condita di tanti momenti di finto relax, di finta stasi, che poi inevitabilmente sfociano nell'isteria pura. Per cui in questo brano io mi diverto anche un po' ad esorcizzarla, questa nevrastenia. Alterno proprio questi momenti in cui ci si dice ok, mi devo calmare, questa calma autoindotta che poi esplode e la rende ridicola. E adesso hai 24 anni, Federica, tu immagino come tutti un pochino ti proietterai, no, nel futuro, come ti vedi tra un po' di tempo, tra un po' di anni, cosa vuoi essere, che cosa pensi? Io non riesco più a vedermi, ero una persona molto molto organizzata, quadrata, fino a un anno fa. Poi sono successe talmente tante cose. Tutte insieme. Esatto, dall'incontro col mio produttore, al contratto e il disco con la Warner, Sanremo. E quindi di conseguenza ho dovuto imparare a non vedermi più di qui a un anno o due, se non di qui a due giorni al massimo. Si deve decidere tutto lì al momento, dove spuntano cose nuove fuori. Sì, a un certo punto dico, vabbè, non me le dite le cose che devo fare fra un po', ditelo nel momento in cui sta arrivando il giorno X. Senti, che cosa ti piace di più in un uomo? Tra l'altro volevo dire che per conquistare Federica Fornabaio basterebbe forse prendere un pennarello di una certa marca che non posso dire. Appena sentito l'odore è andata in visibilio totale, ho dovuto farla riprendere per qualche istante così. Quindi a parte i pennarelli di quella marca, che cos'è che ti piace di più in un uomo? Una caratteristica, una qualità? E la sua sicurezza. La sicurezza nei suoi mezzi e in quello, la sicurezza in se stesso essenzialmente, che è una cosa che purtroppo ultimamente sta venendo molto a mancare. Per cui sento molto sfogare questo senso di non pienezza di sé in maniera poco carina, per cui rivendicandosi sulla partner. È il tuo caso personale in questo periodo? No, per carità. Senti, invece nelle donne, secondo te una caratteristica che ti fa stimare particolarmente una donna? L'autoironia, il modo di sapersi prendere in giro. Sì, la leggerezza, perché noi donne veniamo sempre classificate come quegli esseri pesanti che si criticano se soltanto si fanno commenti su un occhiale che non ci piace o un rossetto sbavato. Invece ho scoperto negli ultimi anni questo mondo femminile che è rinvigorito, che sta prendendo coscienza di sé e si sta prendendo un po' più in giro. Cara Federica Fornabaio, adesso questa che vedi qua è la lampada di Aladino. Oh, se tu dovessi strofinarla e esprimere un desiderio. Vorrei trovare quella serenità che sto cercando da tanti anni. Quindi a 24 anni, nonostante tutti questi successi e questa prospettiva così positiva, rosea davanti, ancora, nonostante tutto, è la serenità che tu stai cercando? Sì, la serenità nell'affrontare tutte le cose, essere contenta di quello che faccio e soddisfatta di come lo sto facendo. Essenzialmente ho avuto un passaggio nella mia crescita personale molto netto e improvviso. A 16 anni, da che ero una ragazza molto molto introversa, senza la consapevolezza di sé, e a un certo punto sono esplosa e sono passata esattamente dall'altro piatto della bilancia, completamente sbilanciata, ed ero arrabbiata con il mondo, non volevo sentire ragioni, avevo ragione io e basta, tutti gli altri dovevano godere assolutamente della mia intolleranza più pura. E quindi ovviamente non era giusto il primo atteggiamento, non era giusto il secondo, e sono anni che sto lavorando nella ricerca di questo equilibrio. Ci sto un po' riuscendo, ma ancora non siamo a meta. Bene, insomma, questa è Federica Fornabaio. Grazie Federica. Grazie a te. Ciao.